C'è come un'aura grave e dotta che si libra e si stende su questa città e che, mentre diffonde una mestizia che non dispiace al visitatore, basterebbe da sé a lasciargli di essa un'impressione particolare e affatto distinta fra tutte le altre città, anche senza la rimembranza delle due torri pendenti, che si inclinano l'una verso l'altra come per farsi un inchino duro e stecchito. Charles Dickens. Il vaso rotto.